sfido per un giro nell'ignoto. Lotto per qualcosa, qui non si vive, si sopravvive e non è la stessa cosa. Ostacoli a iosa, su un percorso basato sulla strada. Cerco di percorrerlo, mannada, sangue che bagna l'asfalto. Ma il sangue non paga, senza alcuna difesa. Sopravviviamo, schiena contro schiena, marijuana suona. Strumenti senza corde né diploma. Strumentista Zorba, ganja rossa, che possa garantire la sopravvivenza. La forza qua non si compra, chi è cresciuto all'ombra e ci ha vissuto sopra sa che la strada riconosce chi la stupra. Quando ogni mattina apro gli occhi, storia brutta davanti. Li vedo, li sento in quanti pensano di eccellere sugli altri. Si sentono grandi, ma non si accorgono che i problemi quando arriveranno, arriveranno in tanti. Io con tutte le forze, unghie e denti, mi aggrappo all'asfalto, punto in alto. L'arte della sopravvivenza non si può negarmela, perché in ogni caso, bene o male, saprò come cavarmi. Sopravvivo da dipendente, punto tutto o tutto niente. Dimmi si sdoppia H, sono sicario. Ho fatto una promessa, e so che quando emergerò sbancherò il lunario. Per armo un microfono e arriviamo a risultati perfetti. I problemi accorrono, schiacciati come insetti. Non c'è sopravvivenza per gli inetti. Firmato oceano, più la cerchia degli eletti. Sangue rappreso sull'asfalto, segno di più di un diretto. Tormento, cicatrici nella mente e sul petto. Sono l'eletto dalla strada che m'ha reso infetto di un odio perverso verso chi è falso e chi ha dominato l'ira credendosi equo e giusto. Ma il giudice questo quartetto colpevole, chi fino adesso si è creduto perfetto, salvo chi all'arte e chi non sa sopravvivere dall'altra parte. La morte attende, chi ha scherzato col fuoco e si è scottato, chi si è calato troppo e non è più rientrato. Peccato per il peccatore deceduto e seduto, aspetta un'altra lezione, che fisso verrà la peggiore situazione. Materia, sopravvivenza, perduto chi è senza la vita, una cazzo di scuola con obbligo di frequenza. Sicuro? Da Imla, non ti spaventare, ma qui vige la legge della giungla. Non c'è spazio per chi si mostra debole, fiacco per chi fa un passo falso. Un metro sottoterra le circostanze non aspettano, se ne fottono. Se uno stronzo resta indietro e non supera l'ostacolo posto, Naimla, sopravvivenza, questo è quanto, tutto a posto. Per armo un microfono e arriviamo a risultati perfetti. I problemi accorrono, schiacciati come insetti. Non c'è sopravvivenza per gli inetti. Firmato oceano, più la cerchia degli eletti. Nessuna certezza o speranza, qualunque cosa accada combatterò con la strada a testa alta. Fiero della tempesta, poca festa nella vita di un b-boy nato in provincia. Cerchiamo aghi nella paglia, c'è chi sbaglia, facciamo dell'asfalto il nostro campo di battaglia. Mi aggrappo con le unghie, voto l'anima a Marte. Cerco di non affogare in questo oceano. Siamo gabbiani con ali spezzate, con ali spezzate, che cercano di prendere il volo. Sopravvivo ed ogni giorno è lo stesso film. Sopravvivo, gioie e dolori ogni giorno col mio team. Per armo mic, per sostentamento uno split. Eretico per il ricone come Wycliffe. Non faccio pop per il bis, attento a ciò che dico, perché non faccio il bis, capito? Il regolamento di sto gioco è complicato. Se c'hai le palle sali, se non vieni spodestato. Sopravvissuto, ferito, il gioco nell'arena è malato, tenebrato da un velo di sangue sugli occhi. L'elite della cerchia per pochi è vietato di entrare agli idioti. Nei che non si arrampica sugli specchi, i miei piedi sono legati per terra, firmato dagli eletti. Più l'oceano in tempesta e buncia si sussegue, e ciò che ne consegue è che cammino testa alta. Nella battaglia non ci sono tregue, la prova sono le situazioni ambigue. Chi ha tenuto duro ora gira in una piastra, ma l'omaggio estremo va a chi saprà cavarsela. Sopravvivenza, per armo un microfono e arriviamo a risultati perfetti. I problemi accorrono, schiacciati come insetti. Non c'è sopravvivenza per gli inetti. Firmato oceano, più la cerchia degli eletti. Per armo un microfono e arriviamo a risultati perfetti. I problemi accorrono, schiacciati come insetti. Non c'è sopravvivenza per gli inetti. Firmato oceano, più la cerchia degli eletti. No, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa.